Il rito di passaggio che a ogni latitudine scivola veloce nel conto alla rovescia, stavolta ha il sapore diverso della ritrovata normalità dopo 2 anni di restrizioni a causa del Covid. E dalle piazze la voglia di far festa si leverà come un'onda lunga, con il ritorno anche della musica dal vivo e tanti concerti. Raddoppiati gli arrivi dall'estero, oltre 5 milioni di turisti stranieri hanno scelto l'Italia per Capodanno, mete preferite le città d'arte, sintesi perfetta fra monumenti, siti archeologici e buon cibo della tradizione. Gli italiani in partenza, 5 milioni e 400 mila, la maggior parte resterà nel nostro paese per un giro d'affari superiore ai 13 miliardi di euro. Vacanze in montagna o nelle località balneari, luoghi che evocano magia, come Piazza Navona a Roma, meta di tanti visitatori, nonostante alcune bancarelle la allontanino dalla sua più autentica bellezza. L'ultimo dell'anno in piazza o a casa? All'estero. Che meta hai scelto? Copenaghen. In piazza oppure a casa? Io sono siciliano. Sia a casa con la famiglia, sia in piazza con gli amici. Con i parenti. Quindi diciamo l'ultimo parenti dell'anno? E con le persone strette. Casa, quest'anno casa. Perché? Il calore della casa. Calore della casa, degli amici. La riscoperta a Capodanno degli agriturismi. A sceglierli sono anche tanti giovani, incoraggiati dal clima mite, che già in questi giorni garantisce temperature primaverili, specialmente al sud. Motivo in più per godersi un po' di relax e accogliere il 2023 con il sorriso. È l'inizio di un buon anno. Bene, ce n'è bisogno, vero? Certo, assolutamente.